A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Primo sabato dello sport del 2011. Giorgio De Luca sempre in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Primo sabato dell'anno per lo sport del 2011. Tratto un momento molto interessante, non potevo che trovarmi dolce compagnia. Gaia Piccardi, collega del Corriere della Sera. Grazie davvero. Buongiorno e buon anno. Buongiorno a te Gaia. Ci stiamo divertendo noi, secondo me, in questi giorni. Credo anche gli ascoltatori, che invito subito, 800 24 00 24. Col nuovo anno non è naturalmente cambiato il numero verde, nemmeno quello dei messaggi, 349 238 6666. Ci stiamo divertendo perché è un inizio d'anno, uno spicchio d'inverno molto interessante, a cominciare dalle panchine di Milano, che detta così potrebbe sembrare un'immagine triste, no? Le panchine di Milano, e invece in realtà sono piene di colore, da Leonardo a Dan Peterson. Beh, ha fatto più rumore addirittura Dan Peterson di Leonardo. Assolutamente, un inizio d'anno scoppiettante. Parliamo di panchine, parliamo in un certo senso di vecchietti, ma che vecchietti, perché se tutti i vecchietti sulle panchine di Milano fossero come Dan Peterson ci sarebbe da divertirsi. Che dire? Cosa hai provato tu personalmente nel vedere Dan Peterson, che 24 anni dopo, tu sei molto più giovane di me, io ho vissuto tutta quell'epoca di Dan Peterson sulla panchina di Milano, e la sensazione che ho avuto io, come molti di quelli della mia età, è che il tempo si fosse riavvolto. Sì, nastro. Come entrare nella macchina del tempo. Vero. Ma a me ha fatto sorridere che noi fossimo reduci da un discorso del Presidente della Repubblica a fine d'anno, tutto puntato sui giovani, e i giovani sono il futuro, e poi venivamo da tutti i moti degli studenti dell'università, e poi Moratti che dice, ci fa capire insomma, che il futuro dell'Inter sarà il figlio, eccetera, i giovani a destra, i giovani a sinistra, e poi boom, dal nulla esce il ritorno di Dan Peterson sulla panchina di Milano. Mi è sembrata una storia meravigliosa, nelle mani di un finto anziano, perché Peterson ha l'energia di un trentenne, la testa di un 35enne, l'esperienza di un 75enne, e i risultati li abbiamo già visti. Sì, anche se poi l'ho sentito al telefono il giorno dopo la partita, sono stanco, morto. Uomo distrutto. Sì, l'ha detto anche a noi. Sì. Della partita di Siena e vado a dormire. Sì, sì. Ma secondo me fa un po' parte del ruolo, cioè sì. A lui piace giocare sui due piani, no? Il ragazzino di 75 anni, però poi quello che in effetti, dopo aver tenuto in mano la squadra, essere andato in campo dopo averla allenata credo una volta, due volte, insomma, pronti via, insomma, immagino che fosse anche un po' drenato. Senti, dalle emozioni. Secondo te, tu segui tutti gli sport praticamente, soprattutto quelli olimpici, hai scritto anche un bellissimo libro sulle donne di Olimpia. Grazie, non so come fai a ricordarti. Io ma tutto, grazie. Studio. No, secondo te è plausibile il discorso di un allenatore nello sport di oggi che sta via 24 anni e poi torna? 24 anni sono due ere geologiche per lo sport, è una cosa completamente differente, è plausibile. Senti, non è da tutti secondo me, però di Dan Peterson in giro non ce ne sono molti, c'è qualcuno che può permetterselo come lui, ecco, non vedo alternative, e forse, non so se sto per dire una stupidaggine, ma forse il basket ti permette questi tripli carpiati con doppio avvitamento, piuttosto che uno sport come il calcio, sì, che si evolve alla velocità della luce, che ha un ricambio di giocatori pazzesco, un ricambio di panchine che non è mai fermo. Forse la differenza lo fa anche lo sport nel quale questo piccolo miracolo è avvenuto, perché non mi vedo un... oddio, è vero che il trap imperversa... Però non ha mai smesso. Non ha mai smesso, no, ecco, non mi vedo un ritorno dal nulla così su una panchina calcistica. Insomma, il calcio oggi è dei Leonardo, degli Allegri, della nuova generazione di tecnici. A proposito di Leonardo, che è l'altra metà di quella panchina milanese, Leonardo e l'empatia, abbiamo in questi giorni scoperto il significato lessicale di questa parola, però è vero, cioè quello che si è visto l'altro giorno a San Siro, mentre per l'Olimpia di basket hai visto una squadra che aveva l'aggressività e il fuoco negli occhi, Per l'Inter hai visto una squadra finalmente col sorriso, finalmente piena d'amore, di nuovo, o no? La sensazione così a pelle che si è avuta è stata questa. Sì, la politica dell'amore che Leonardo... Sì. Peace and love. Peace and love che propaga da anni e di cui è profeta, sembra funzionare. Poi io sono anche d'accordo con uno dei massimi interologi su Piazza, che è il mio collega Fabio Monti del Corriere, che dice... Aspettiamo, cioè i problemi dell'Inter non si risolvono in due giorni e non sarà sempre l'Inter di San Siro contro il Napoli. Però è vero che Leonardo, ecco, a livello di motivazione, di testa, di anima, che è un'altra parola che gli piace molto, ha portato aria nuova all'Inter. Poi l'altro giorno, dopo aver vinto la partita, ha detto una cosa bellissima: non voglio capire troppo di questa storia. Io voglio viverla. Sì, eh? È piaciuta anche a me quella frase, sì, perché tutti siamo sempre preoccupati di capire, razionalizzare, spaccare il capello in quattro, perché, per come. È una bella storia anche questa, come quella di Dan Peterson. A volte, insomma, facciamoci meno domande e godiamoci più le emozioni di queste bellissime avventure nel calcio e nel basket. Bravissima, Gaia, hai ragione. Tra l'altro oggi Leonardo ha detto una cosa interessante. Gli hanno chiesto se per caso senta Mourinho. Lui ha dato una risposta che secondo me farà molto discutere. Proviamo a sentirla. Io sento Mourinho, noi abbiamo un rapporto ed è vero che ci conoscevamo prima e questa cosa ci ha resa complice di una situazione. Però tutti rispetto, credo che sono persone molto, diciamo, molto aperte, lui come è stato molto aperto, quindi lui oggi è allenatore del Real Madrid e deve sicuramente pensare a tante cose, lui ha tante cose da pensare, ma è vero che ci siamo confrontati per tante altre cose, dopo è normale, c'è una realtà, un quotidiano, che è difficile tante volte che uno possa, anche se lui è stato qua così importante, sapere cosa succede ogni giorno, no? Però sicuramente mi è stato molto molto vicino e quella è una cosa che io ho una grande riconoscenza, principalmente in questo momento iniziale, perché veramente mi ha aiutato. Hai sentito? Ma cos'è? Primo caso di allenatore con doppio incarico? Beh, oddio, ho già sentito la teoria di certi anti-interisti che sostengono che Mourinho continui ad essere l'allenatore occulto di questa squadra pur da Madrid. Cosa pensare? Io non ci trovo nulla di male che un allenatore che arriva sulla panchina dell'Inter, peraltro dopo 15 anni, 20 anni di Milan, e Mourinho, che ci piaccia o no, all'Inter resterà un totem per sempre, certo, per quello che ha fatto, certo, e per come l'ha fatto. Ora, se io arrivo in un posto nuovo di cui so molto poco e voglio saperne di più, perché non telefonare a chi è stato lì fino all'altro giorno e conosce la situazione nei dettagli? Non ci vedo nulla di male. Poi è facile dire, beh, il vero allenatore dell'Inter è Mourinho da Madrid, però insomma mi sembra un po'... Una banalizzazione forse. Sì, un po' provocatorio. Una ecco. Semplificazione. È vero invece, secondo me, che il peccato originale di Benitez, l'ho detto un miliardo di volte, gli ascoltatori saranno anche stufi, però il peccato originale di Benitez è stato quello di provare a seppellire subito Mourinho. Lui è Mourinho, io sono Benitez. Lui ha vinto ma giocava male, adesso vi faccio vedere come si gioca a calcio. Ha avuto l'ha detto lo stesso Mourinho in un'intervista poco prima dell'esordio di Benitez, no? Questa ansia di cancellare subito, istantaneamente, anche nella faccia della squadra Mourinho. Sì, forse un po' di precipitazione nel voler affermare se stesso in questo ambiente nuovo. Col senno di poi possiamo dire che ha sbagliato, insomma chiunque di noi vorrebbe affermare se stesso in una realtà lavorativa nuova, probabilmente c'è modo e modo e ci sono anche dei tempi fisiologici da rispettare, perché se Benitez era pronto a tirare una riga sopra Mourinho e tutto quello che era stato fatto negli ultimi anni, l'ambiente non lo era, i giocatori e in primis mi sembra il presidente, che non è una variabile secondaria nell'Inter. No, non lo è mai stato. Dunque adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, se volete chiacchierare con noi siamo qui, è 800 24 00 24. Gaia Piccardi rimane con me per questa prima ora del sabato del 2011, a tra poco. Rieccoci dunque sempre con Gaia Piccardi, giornalista illustre del Corriere della Sera, che mi fa compagnia oggi pomeriggio. Stiamo parlando di panchine, quelle milanesi che sono così colorate e quelle inglesi che sono molto più difficili, cara Gaia. Notizie di oggi, Oxon... A casa. Anche quella di Ancelotti è un po' arrugginita. Credo che domani sarà una giornata decisiva per Carletto. Ma secondo te lo mandano? Ma senti, lui può aver detto: facciamo come al Milan, campionato lo molliamo, volete la Champions League, proviamo a vincerla, sacrifichiamo questo per vincere quell'altro, perché su tutti e due i fronti non si può. Sì, no? Sì, sì, Ancelotti può anche aver fatto un discorso così ragionevole, però ecco, anche lì non mi sembra che ci sia un presidente, come dire, molto razionale, un presidente che spesso, come certi presidenti di casa nostra, decide con la pancia, e quindi se Carletto dovesse fallire anche domani, mi pare di ricordare che gioca in casa, però insomma questo non vuol dire molto. Ma sai, una decisione di pancia da Abramovic ce la puoi aspettare. Eh sì, penso di sì. Anche Mourinho potrebbe fare lo stesso con Ancelotti. Altra panchina. Altra panchina che non traballa, per carità, quella di Del Neri. Non traballa, però ha perso la vista sullo scudetto. In una botta sola, perché quella sconfitta con il Parma è stata talmente pesante anche in termini proprio di classifica, oltre che di perdita di Quagliarella, di giocatori, il ritorno alla pazzia di Felipe Melo. È stato un pomeriggio tragico addirittura quello juventino, e improvvisamente la Juventus, che ha pure passato il Natale magari pensando agli acquisti e ragionando, forse sognando forse lo scudetto, adesso forse non può più farlo, Sì, oddio, è stato un fulmine a ciel sereno. Nessuno poteva aspettarsi una sconfitta di quelle dimensioni. Poi il presidente Agnelli ha un bel dire: perdere 4-1, perdere 1-0 cambia molto, ma in realtà cambia molto per l'immagine della squadra, il morale dei giocatori. E poi come perdi, ecco, è andato a pezzi il risultato, è andato a pezzi la squadra. Insomma, a me Del Neri sembra un uomo molto freddo, quindi che non si lascia prendere dalla disperazione. Come mai l'ho visto lasciarsi prendere dall'entusiasmo quando le cose vanno bene? Di certo hanno ragione quelli che dicono che la prima giornata dopo la ripresa, dopo la sosta, è un po' come la prima giornata di campionato, non sai mai cosa aspettarti. Lo stesso Allegri a Cagliari era molto preoccupato per il risultato della partita, che infatti poi si è sbloccata solo nel finale. Però veramente la prima dopo la sosta, con i giocatori che tornano dai cinque continenti, viaggi intercontinentali, nel caso di quelli del Napoli, matrimoni, libagioni, chissà cos'altro, insomma è sempre una giornata delicata. Direi che ieri la Juve è quella che ci ha rimesso più di tutti, perché anche il Napoli ha perso, ma non così. Sì, e tra l'altro domani il Napoli potrebbe spegnere definitivamente anche le speranze della Juventus. Gaia, ti faccio parlare un po' con gli ascoltatori. Bellissimo il fatto che, a me per me personalmente, così mi sembra uno splendido augurio, che la prima telefonata dell'anno, del sabato, arrivi da Napoli. Gennaro. Salve, buonasera a voi ragazzi, come va? Tutto bene? Non c'è male, lei? Complimenti per la trasmissione, siete straordinari, vi ascolto con tanto piacere. Addirittura, grazie Gennaro. Un piccolo inciso, tornando sempre sul discorso Inter piuttosto che Benitez. Sì. Benitez, quando ha firmato a giugno, conosceva un attimino qual era la situazione, no? Sapeva quello che si trovava davanti. Sì. Che aveva una grossa eredità, che aveva un presidente un poco che ragiona con la pancia, che la squadra è ancora su Mourinho. Sì. Ora, mi domando, è stato solamente il dio denaro a farlo venire a Milano? Ma è stata probabilmente una sfida allettante. Certo è che Benitez è arrivato, mi pare, senza porre grandi condizioni, no? Lui ha preso la squadra, non ha subordinato la sua firma a degli acquisti, mi pare. No. Gli ha chiesti dopo, nel momento in cui si trattava di spaccare tutto, ed è stato un modo come un altro, grosso modo. Sì, gli ha chiesti dopo, non li ha avuti, amici come prima, arrivederci, grazie. L'avventura praticamente è finita lì. No, ma ha ragione Gennaro. È stato presuntuoso secondo te? Forse un pochino sì, nella fretta proprio che lui ha avuto di voler fare le cose a modo suo, insomma non sei solo tu, ci sono dei giocatori con cui avere a che fare, c'è un ambiente che veniva dall'epopea Mourinho, e l'epopea Mourinho da Piano Gentile rimarrà incisa tra i fili d'erba del campo e nei muri della Pianetina per sempre. Cioè non puoi pretendere di arrivare e voltare pagina così brutalmente. Ma soprattutto nella testa dei giocatori, io credo resti incisa, quindi tu non puoi andare lì da giocatori che hanno appena vinto tutto, quindi quindi hanno anche il carisma di chi ha vinto tutto, no? E non, certo, puoi andare e dire vabbè, fino adesso abbiamo scherzato, se fate come dico io saremo vincenti anche più belli. Sì, sì, sì, ma poi giocatori che hanno forte dentro di sé la consapevolezza che molto di questi successi sia merito di Mourinho, mm-hmm, giocatori che hanno, come amerebbe dire Dan Peterson, sputato il sangue per, sì, Mourinho, sì, ma letteralmente, sì, sì. Giocatori che hanno triplicato l'energia in campo per lui, che hanno rimandato piccoli interventi di ripulitura di ginocchia o altri legamenti, che hanno giocato mezzi infortunati. Ora, già il trauma di ritrovarsi di fronte una faccia che non è quella di Mourinho, e probabilmente hanno sentito poco rispettata la memoria, parlandone, sì, da vivo, di, sì, Mourinho, sì, e a un certo punto, secondo me, hanno cominciato a giocare contro Benitez. Forse perfino la loro di memoria. Benitez, certo, si è voluto imporre subito in maniera al di là dei modi un po' brusca, forse. Roberto Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo dire che il gioco del calcio è il gioco del calcio. Si è bellissimi se si vince. Eh? Se si perde, anche se si gioca bene, si è bruttissimi. Sì, qua da noi sicuro. Qua da noi sicuro. Per Leonardo, come voleva per Mourinho, sì. Però ecco, siccome c'è un certo signor Allegri che non ha posto particolari condizioni per venire al Milan, e nonostante tutto guarda tutti dall'alto della classifica, sì, credo che se ne parli davvero poco di questa circostanza, no? Perché un po' di cambiamenti di testa sua l'ha portati. Ah, sicuro. Tra l'altro oggi rossonera, dove il gioco doveva essere. Ma è stato molto, molto furbo, molto astuto Massimiliano Allegri. È stato molto furbo, molto astuto e anche molto fortunato, perché è vero che non aveva posto particolari condizioni, però per lui allenare il Milan era già salire nell'Olimpo, no? Quindi che condizioni vuoi che ponga? È stato fortunato perché gli hanno preso Ibrahimovic, quando gli hanno detto no, guarda, non ti prendiamo nessuno, fa giocare Ronaldinho e fai il bravo, gli hanno preso Ibrahimovic. E allora a quel punto lì ci ha messo del suo ed è stato bravissimo. Oggi l'ho anche salutato Ronaldinho, grande, ma ve lo faccio sentire, Allegri su Ronaldinho e anche su Cassano, oggi in conferenza stampa. Con Ronaldinho abbiamo avuto sempre un buon rapporto, li rispetto, lui ha sempre rispettato le mie scelte, io ho cercato e cerco sempre, tutte le volte che giochiamo una partita, di mettere in campo la miglior formazione, spero. Ogni tanto ci riesco, ogni tanto non ci riesco, quindi... Però l'importante è che io faccia sempre le scelte nel bene del Milan. A livello tecnico sono due giocatori straordinari. Io quando Ronaldinho ha deciso di andare per il calcio italiano e per il Milan soprattutto, è stata una grossa perdita, perché credo che un giocatore tecnicamente così difficilmente lo rivedremo in Italia. Però poi dopo ci sono l'equilibrio della squadra, ci sono delle cose che un giocatore deve dare. E Cassano è un giocatore sicuramente che ha molto da dare e credo che lo farà nel migliore dei modi. Questo era Allegri di oggi, Gaia. Tra l'altro, notizia sempre di oggi, Ronaldinho andrà al Flamengo, l'ha detto Galliani. Clamoroso colpo di scena. Già, Flamengo è arrivato e ha bruciato il gremio. Hai visto, eri a Cagliari per Cagliari-Milan l'altro giorno, è stata una vittoria chiave. Nel giorno in cui manca Ibrahimovic, manca mezza squadra, ci sono i ragazzini, vinci su un campo che non è semplice come quello di Cagliari. Sì. No, guarda, io finora di Allegri ho capito poche cose fondamentali. Primo, è un bel ragazzo. Secondo, è intelligente. Dal tuo punto di vista, meglio lui o Leonardo? Meglio Allegri, è più, ha un'autenticità che Leonardo ogni tanto perde di vista. Dal mio punto di vista è un uomo intelligente che ha saputo inserirsi. Parlavamo prima di Benitez, che non ha saputo inserirsi nei meccanismi dell'Inter. Lui è arrivato e ha saputo parlare alla squadra la lingua giusta, entrare a Milanello con il piede giusto. E poi ho capito che gode di grande fiducia e di credibilità da parte della società, perché se Berlusconi non avesse voluto sbarazzarsi di Ronaldinho, Ronaldinho sarebbe ancora lì. Quindi Allegri è riuscito a convincere il più grande sponsor sulla terra di Ronaldinho, e non è una virtù secondaria al Milan. La vittoria di Cagliari è stata una vittoria importantissima, arrivata alla fine di una partita invereconda. Però poiché gli scudetti li vinci anche portando a casa tre punti nelle partite invereconde, questo è un altro elemento che mi fa pensare che Allegri sia l'uomo giusto al posto giusto, ecco, sì, anche sì. Baciato da una certa buona stella finora. Sì. È capace, non è mica solo fortuna. Indubbio. È un allenatore preparato. C'è Luigi che scrive via SMS: Allegri è più falso del suo presidente. Parole come pietre. Paroloni, E forse Luigi sa qualcosa che noi che a noi sfugge. Ma sarà una sensazione, un'impressione. Non so se ad Alfredo, che chiama la provincia di Pisa, Allegri sia poi così il livornese Allegri sia poi così simpatico. Sentiamo. Sì, ciao. Ciao. Buonasera a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e un ringraziamento a voi che fate una bella trasmissione. Grazie. Allegri, intanto, da Pisano, com'è? Intanto Allegri mi sta simpatico perché quando sento parlare uno che parla come me, questo è vero. Il livornese mi è simpatico a prescindere. Sarò strano come Pisano, ma Sì, un po' sì. Se lo lasci dire, Alfredo, un po' strano, sì, perché il livornese è simpatico a prescindere. I livornesi sono molto simpatici, sì, sì. Hanno un modo molto colorito. Ora Allegri è molto ingessato nella sua figura, ma sono convinto che se lo sentissimo parlare quando parla con Chiellini, che è un suo amico, vanno molto sullo sbracato. Verissimo, verissimo. Dicono che Allegri, quando è rilassato a cena dopo un bicchiere di vino, è la persona più simpatica del mondo. Ma non si fa fatica a crederlo. Chiellini lo chiama acciuga quando parla di, non so se vi risulta, ma lo chiama acciuga. Dice: "Ah, acciuga, ha fatto così. Insomma, sono molto, molto simpatici queste cosine. E niente, io da Pisano. Pensi un po', io sono tifoso della Juventus da 30 anni e passa, sì. E mi sto chiedendo, io sto vedendo una situazione di una squadra che ha dei bei meccanismi, un gioco che si comincia a vedere, perché comunque Del Neri secondo me è un ottimo tecnico, certo. Però vedete, qui si fanno degli scivoloni terrificanti, cioè prendere quattro fappine da una squadra infarcita di rifiuti della Juventus, passatemi il termine, perché via, diciamola così, perché Paladino e Giovinco, pur essendo degni giocatori, restano comunque degli scartini. Giocatori che la Juventus non ha voluto più e che si sono presi. Io credo che Giovinco, esatto. Al di là della mancata esultanza, cosa che a me piace zero. Giovinco ormai è bruciato, lui ha bruciato la sua possibilità di ritornare alla Juventus, assolutamente. Sì. Ma non è tanto per l'esultanza quanto per le passate dichiarazioni che ha rilasciato copiosamente proprio. D'altra parte, insomma, lo hanno richiamato dall'Empoli, doveva essere il futuro vero immediato quasi della Juventus, l'ha sbattuto in fondo alla panchina, l'ha lasciato lì, quindi io sono anche cose che posso capire, Alfredo. Non so cosa ne pensi tu, Gaia. Ma è sempre curioso notare come nel calcio poi la nemesi di certe squadre venga dal loro passato. Cioè Giovinco fa due gol alla Juve umiliandola in casa in quel modo. Potremmo dire banalmente la dura legge dell'ex, no? Sì. Però mi incuriosisce sempre, mi diverte sempre, da non juventina ovviamente, vedere, assistere a questi episodi, l'ex ripudiato, cacciato, maltrattato, che alla fine poi si prende le sue piccole vendette. Sono d'accordo anch'io sulla non esultanza, non ha molto senso. Non quella di Giovinco in generale, in generale, assolutamente, fai gol, gioisci a modo tuo, adesso non fare il carnevale, certo, di Rio, però certo, fai un sorriso, insomma non è morto nessuno. Anche per i tuoi nuovi datori di lavoro e per i tuoi nuovi tifosi, ad esempio. Mi sembra quasi una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi nuovi, più che un segno di rispetto nei confronti di mi sembra un'ipocrisia in un mondo ipocrita di cui potremmo serenamente fare a meno. Dunque, adesso ci fermiamo invece pochi istanti e subito dopo parliamo con Piercarlo dalla provincia di Milano. 800240024, io e Gaia Piccardi vi aspettiamo qui. Ecco ora la palla a Piercarlo. Sì, buonasera. Buonasera. Lei è bravo, l'ascolto spesso. Grazie. Senta, io volevo fare delle considerazioni riguardo, tornando al discorso Benitez. Si è detto prima che tutto sommato si giudica il lavoro degli allenatori a seconda delle vittorie o delle sconfitte. In questo caso, secondo me, si è andati un po', come dire, controcorrente, nel senso che Benitez ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto il campionato mondiale per club, ok, non ha centrato la Supercoppa europea. Si è qualificato, penso, tra le italiane con il miglior punteggio tra gli ottavi di Champions League, mi corregga se sbaglio, forse l'Inter ha più punti della Roma e del Milan. Ha giocato in campionato togliendo alla squadra dello scorso anno Maicon, Samuel e Milito per tutta l'andata. Ora, secondo me, quello che poteva fare e quello che ha fatto Benitez è stato più che eccellente. Volevo un suo parere a riguardo, grazie. Sì. Grazie a lei. Se lei la mette sui freddi numeri, può essere anche così, al di là del fatto che il ritardo in campionato è consistente. Però, se invece non vogliamo metterla sui freddi numeri, Benitez non piaceva ai giocatori e non piaceva al presidente. Soprattutto. No? Sì, sì, io la penso. E questo qualcosa conta? Sì, io penso che Benitez non sarebbe rimasto neanche se dopo la vittoria del mondiale per club non avesse detto quello che ha detto a caldo. No, ma lui lo sapeva quando è partito. Sì. Quando è partito sapeva come era il giro del fumo, quindi sapeva, sì, che sarebbe stato. Bisognerebbe chiedere a Moratti e sperare che desse una risposta convincente. Bisognerebbe chiedergli perché ha preso un allenatore del quale non è mai stato perdutamente innamorato. Ora, è vero che di grandi amori nella vita non ce ne sono moltissimi e Mourinho è sicuramente stato il grande amore di Moratti. Ecco, però dall'inizio è sembrato un matrimonio claudicante e infatti non è durato molto. Poi i numeri sono questi, ha ragione l'ascoltatore, ma siccome i numeri spesso nello sport non bastano, la pancia e il cuore hanno detto cose ben diverse dai numeri. Gaia, conoscerai certamente Andrea Zorzi. Sì. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. Come stai? Buon anno a tutti. Ciao, buon anno. Buon anno Andrea. Dove sei a proposito? Com'è? Dove sei? Oh, a San Casciano, vicino a Firenze. Sto facendo una cosa, sto svuotando i cassetti dei ricordi. Cioè? Pensa te. No, sto facendo una registrazione perché stiamo tentando di mettere un po' di ordine nei ricordi per fare sì che nel prossimo viaggio di Tracce di Sport, alla quale mi auguro tu parteciperai, sai, questo giro per l'Italia. Speriamo che una volta mi porti, continui ad andare in giro per il mondo, per l'intero mondo, mai una volta mi hai portato. Bravo, mi prenderò questo impegno, portati un po' in giro per l'Italia. Quindi nella prossima versione di Tracce di Sport, siccome è prevista anche una testimonianza nelle scuole superiori, mi piaceva l'idea di provare a organizzare una testimonianza che fosse un po' più organica rispetto a quelle che faccio di solito, che sono un po' inventate sul momento. E per fare questo, quindi, sono qua con un autore teatrale che mi sta chiedendo un sacco di cose, che non sa quasi nulla di me. E poi alla fine insieme sceglieremo quelli che possono essere i punti dal quale ripartire per raccontare a ragazzi giovani che sanno poco di quel periodo della pallavolo qualcosa della mia storia. È un'operazione per alcuni aspetti divertente ma anche un po' faticosa, via. Sì, un sacco di cose. No, anche perché per vulcanico, raccontare la sua storia Andrea ha bisogno di... Di vari atti, sì, di varie opere, esatto. Teatrali, un po' di DVD. Primo tempo, secondo tempo, terzo tempo, non basta. E magari il quarto. Cerchiamo di fare le cose brevi. Per adesso ho svuotato un po' di cassetti, c'è un grande disordine in questa stanza. Poi cerchiamo di fare un po' di ordine. Senti Andrea, cosa ne pensi di questo di queste panchine milanesi di cui Gaia Piccardi stiamo parlando da un po', anche con diversi ascoltatori? È uno spicchio d'inverno molto interessante sul fronte panchina. Panchina a Milano non è quella al parco in mezzo alla nebbia. Qui abbiamo panchine su cui tornano, su cui saltano il fosso. Peterson e Leonardo, insomma, sta succedendo di tutto. Tu manchi la Milano da un po', ma rivoluzione, Beh, tra l'altro anche la nazionale di volley ha qualcuno, esatto, di nuovo in panchina nel frattempo. Sarebbe, pensa se fosse tornato Velasco, sarebbe stato un po' la stessa cosa. Allora tombola, Sarebbe stato veramente un... Dunque, cosa penso? ti ho detto che a me Leonardo è molto simpatico. Mi piace molto come parla, come si presenta, mi piace il suo modo di fare. E il ritorno all'Inter, come ha detto lui, mi sembrava un'occasione irrinunciabile. Credo che non lo dirà mai, ma ci sia anche la voglia di far vedere a Berlusconi, che magari era un po' più bravo come allenatore di quanto lo ha giudicato il nostro Presidente del Consiglio. Per Dan Peterson era un'altra situazione irrinunciabile, come lui ha detto, però devo dire che lì i rischi se ne aumentano un pochettino, sì. Perché tanto tempo, perché il basket non è facile, perché in queste situazioni le pressioni sono veramente moltissime. Dan è uno che ha fatto grandi esperienze, però mi pare che in questo caso il rischio sia un po' più elevato rispetto invece a quanto Leonardo affronterà sulla panchina dell'Inter. Quindi ti sembra un po' un'utopia questo ritorno? Per la verità mi piacerebbe se potesse andare a buon fine, però credo che lo sport moderno sia un po' più, paghi un po' di più la pragmaticità che il sogno o il sentimentalismo. In questo senso mi auguro che Dan possa fare del suo meglio, mi auguro che Dan mi sorprenda. Come tu ben sai, non ho mai amato i ritorni, né come giocatori e neanche questo può essere considerato un ritorno da allenatore. Se mi smentisce ne sono molto felice, ma non sono così fiducioso. Molto pragmatico, un po' pessimista, molto. Gaia. Molto, ma no, ma invece a me piace credere in questa favola meravigliosa. Sì. Basta, razionalità, numeri, testa, viva Dan Peterson for president. No, si casca in questa storia, non sto dicendo che io sono uno da numeri, pragmatico e insensibile. Sto dicendo che non ci si può neanche affidare solo al sentimentalismo. C'è un ghiacciolo al posto del cuore. No, piano piano col cuore. Il cuore è buono, ma poi si paga in contanti. Allora, ogni tanto ci vuole una sana valutazione senza affidarsi sui numeri, e qualche volta essere troppo sentimentali non è esattamente la scelta migliore. No, ma poi ricordiamoci che il ruolo di Dan Peterson è quello del traghettatore, ecco, non è che lui è tornato in panchina per rimanerci avvitato per i prossimi 10 anni. Mi sembra di capire che l'Olimpia abbia ambizioni ben diverse per la panchina e devono maturare i tempi, e Dan sembrava la soluzione ideale per dare una scossa di adrenalina all'ambiente e alla città che così pazzesco. Solo lui poteva pazzesco. Dare, nessun altro. Tanto Andrea, la mossa ha pagato in termini di... Ha pagato in termini di immagine perché a Milano ne parlano tutti, anche gente che non sapeva, non guardava più la pallacanestro da millenni. Verissimo. Insomma, 3 pagine sulla Gazzetta dello Sport, 1 pagina tutti i giorni sul Corriere della Sera di Gaia Piccardi, interviste di qua e di là, poi lui non si è negato ovviamente a nessuno. Insomma, da questo punto di vista è stato un lampo clamoroso. Caso dei miei a Torreselle in provincia di Padova, 1000 abitanti, esco dalla messa delle 10 e mi fa: oh, ma Dan Peterson come va? Non ha pagato solo a Milano, ha pagato in tutta l'Italia. Sì, fosse tornato Velasco invece sulla panchina della pallavolo? Beh, sarebbe mi piacerebbe. Ho solo un dubbio, che quando ho parlato con Velasco ultimamente, non so benissimo cosa voglia fare Velasco. Da io grande. Sono convinto che se Velasco per davvero ritenesse il suo impegno come allenatore l'impegno prioritario, il più importante, quello a cui tiene di più, pure a 55 anni potrebbe fare ancora benissimo. Mi è parso però di capire che in questi ultimi anni Velasco ha iniziato, secondo me in modo legittimo, a pensare anche ad altre cose, alla sua vita personale, alle curiosità, ai viaggi, alla cultura, cosa che a lui non manca. E mi sa che questi 2 aspetti messi insieme potrebbero essere un limite, perché io sono di quella scuola che ritiene che quando si affronta una sfida deve essere totalizzante. Sì. E ho il dubbio che in questo momento Velasco non sia più solo un allenatore, ma abbia voglia di essere anche qualcos'altro. Sì, quindi c'è tempo, tornerà tra un po' quando avrà 75 anni. Prima non lo vogliamo, solo dai 75 in su. Andrea, quando torni? Presto, mi auguro. Sì, ritorno domani. Domani anche perché poi inizia la scuola, quindi ricominciamo un po' tutti quanti col solito tran. Of course. E quindi dopo una bella vacanza con un sacco di esperienze, stasera cerco di mettere un po' di ordine qui nei ricordi buttati per terra, sì. E poi da domani ricominciamo. Buon lavoro, a prestissimo, Andrea. A prestissimo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao Andrea Zorzi. Abbiamo un sacco di ascoltatori che vogliono... che vogliono esibirsi. Bene. E ci sarebbero anche altre panchine. Ad esempio, cosa hai in mente? Ad esempio quella del parco, quella vera del parco, sì, su cui potrebbe finire Adrian Mutu. Ah, sì. Sì, sì, addirittura sulla panchina del parco lo vogliamo vedere. Sentite cosa ha detto ieri Beccari. Proviamo, risentiamolo perché è abbastanza divertente. Vado là, non perdere la valle, però tavolo, senti. Ci abbracciamo, ci baciamo e cominciamo a parlare, no, della situazione di Mutu. Ci abbracciamo, normale, ci baciamo. Finché ho sentito parole brutte verso il giocatore, parolacce che non le avevo sentito fino a quell'ora. Bastardo, disgraziato, il cancro della società. Mi dicono queste parole brutte. Va bene, continuiamo a discutere. Che facciamo? Va bene. Però senza più i baci e gli abbracci, magari. Però non in Italia. Ci deve dire la società. Guardi, c'è il Cesena, Bologna, che mi hanno detto che sono interessati. Però in questo momento che posso fare io? Se la Fiorentina dici no per Italia. Panchina del parco, te lo dico io qui. Sì, mi sembra che sia l'unico sbocco della situazione ormai. Ma non lo so, abbiamo dato mille chance di redenzione a Cassano e non ne vogliamo dare un'altra a Mutu? Sì, certo che ne ha fatte più di Carlo in Francia. Ah sì, una più di Bertoldo. Sì, sì. No, infatti quando parla di irriconoscenza della società nei suoi confronti, sì, mi fa sorridere perché ne ha combinate parecchie. Non lo so, non ho abbastanza al polso della situazione per sapere se è un caso irrecuperabile, sì, o no. Ad esempio, ne ha tutta l'aria. Certo è che la Fiorentina senza Mutu perde tantissimo perché secondo me resta, al di là di tutto quello che ha combinato e che ha fatto, resta un giocatore straordinario, Adrian Mutu. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi Luca da Torino e Dennis da Conegliano. C'è Cinzia, un'ascoltatrice da Venezia, che domanda qual è secondo noi la differenza tra Leonardo del Milan e quello dell'Inter. Per il momento, secondo me, l'unica differenza visibile sono le t-shirt che mette sotto la giacca in conferenza stampa, mi piacciono pochino, non so Gaia Piccardi. Ma io dico l'unica differenza finora visibile è la sciarpa. La sciarpa. No, vabbè, scherzi a parte. Chiaro, ma come si fa a dirlo? Avremo modo di lo scopriremo valutare. Vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Tanto tu hai un sogno per sì. Hai un attacco da sogno, un o da incubo. Balotelli, Cassano, Mutu, sì, e poi il malcapitato allenatore, non so se Allegri o chi altro, in panchina con camice bianco e stetoscopio nelle, sì, orecchie, pronto, sì, a intervenire. E i carabinieri esatto, intorno e al campo. E la neuro pronta a scendere, sì, a scendere in campo con le camicie di forza. Luca da Torino, buonasera. Buonasera, innanzitutto buon anno e complimenti per la trasmissione. Grazie, buon anno altrettanto. Allora, io sono uno juventino doc, nel senso che seguo la Juventus dal suo scudetto numero 13 per ragioni anagrafiche del 1967. Avevo 9 anni e da quel momento lì l'amore non è mai più cessato. Sì. Io ho alcune considerazioni da fare. Allora, innanzitutto mi auguro che Toni, per quanto sia un acquisto un po' così dell'ultimo minuto di emergenza, ripercorra quella che fu l'ultima stagione di Altobelli nella Juventus nel 1988, quando fece 17 reti e un campionato strepitoso, pur avendo già 33 anni suonati. E questo è il mio primo augurio. Secondo, ritengo che siamo senza un numero 10, perché continuare a insistere con un giocatore che, per quanto abbia dato moltissimo alla Juventus, ormai ha passato le 36 primavere, e quanti ne ha bruciati dietro di sé. Abbiamo rinunciato a Giovinco per tenerci Del Piero, abbiamo rinunciato negli anni precedenti a Mutu, abbiamo rinunciato a Bojinov e a Miccoli. Cioè, voglio ricordare solo tutti i numeri 10 che sono stati sacrificati sull'altare di Del Piero, perché Del Piero era intoccabile e la società purtroppo si faceva condizionare molto dalla tifoseria, sì, estrema, che è quella che poi secondo me ragiona più con la pancia che col cervello, sì, e col buon senso. Sì. Quindi l'allenatore adesso direi che, dopo così sfortunate peripezie, l'abbiamo trovato. Io continuo a rimpiangere Deschamps, che non meritava, dopo aver fatto l'anno in vicolo alla Juve, di essere mandato via. Beh, anche quello è un altro degli errori. Sì, uno dei tanti errori commessi dalla dirigenza, che poi sono stati tutti comunque pagati in contanti, mi pare. Adesso dirigenza nuova, è stata trovata una via che pare quella giusta. Per il resto io condivido abbastanza quanto dice Luca. Sì, anche se io ho la sensazione che Del Piero non sia più così intoccabile come una volta. Del Piero ha un contratto che va rispettato, ma insomma come dire, credo che siano gli ultimi fuochi. Però vedi, ha sempre come dice l'ascoltatore, un notevole ascendente anche sulla tifoseria, e questo finisce per condizionare il Ranieri di turno, il Deschamps di turno. Ma vedremo, sai, se condizionerà l'Agnelli di turno e il Del Neri di turno, che mi sembra uno fatto di granito, bello tosto, anche la sparatona che aveva fatto, salvo mezzo rimangiarsela contro Buffon, mi fa capire che l'aria è un pochino cambiata. Di certo la Juventus domani va a Napoli a pezzi, e con un attacco per la serie l'Italia non è un paese per giovani, con un attacco settantenne del Piero e Toni contro i ruggenti Cavani, Lavezzi e Hamsik, e sarà divertente insomma vedere se i vecchietti, i veterani la spuntano, oppure se invece affondano i giovani leoni di Mazzarri. Sì, avrebbe avuto bisogno di Cavani la Juventus, avrebbe bisogno di un Cavani, avrebbe bisogno di insomma di una superstar davanti, inutile nascondersi, no? Certo è stato detto, non è Toni quello che rimpiazzerà Quagliarella, quindi si stanno di nuovo muovendo, avrebbe bisogno di Benzema, tanto per dirne un altro, di un giocatore di questo tipo, poi avrebbe bisogno anche di un altro, facciamo Gareth Bale, facciamo comunque un giocatore di fascia di quelli che fanno la differenza. Ecco, in attesa di tutti questi arrivi, fa con quello che ha la povera Juve, e il povero Del Neri manda in campo l'attacco settantenne al San Paolo, e quindi da non perdere domani sera. Non è spettacolo. Da neurodeliri come quello che hai evocato tu prima, però è da panchina del parco, per tornare all'inizio di questa chiacchierata. E magari ci trovano Mutu, che è un giocatore che volendo potrebbe servire alla Juventus. E perché no, certo. Lo incontrano lì al parco. Ah, vieni anche già tu. Già che ci siamo, vieni con noi. Poi devo parlare con Becali, baci e abbracci, te lo regalo. Ti porto a Conegliano, Denis. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io sono un milanista e non felice dell'arrivo di Cassano. Oltre a un discorso, diciamo, d'immagine che non mi è sembrato bello portare Cassano al Milan dopo quel che aveva fatto la Sampdoria, ma direi questo soprattutto per un discorso tecnico. Ronaldinho veniva messo fuori da Allegri perché si prende delle pause e perché non scattava negli spazi, perché è quel tipo di giocatore. Cassano è quel giocatore che l'anno scorso è stato messo fuori squadra da Del Neri per gli stessi motivi, perché si prendeva delle pause, perché non andava negli spazi, perché non era compatto, coerente con il resto della squadra, per cui io lo trovo un acquisto inutile. Volevo sentire il vostro parere. Insomma. Qualche perplessità me la tengo anch'io su la possibilità che possa essere veramente funzionale Cassano al Milan, perché credo possa essere un giocatore determinante molto più di Ronaldinho, onestamente, perché anche qui la sensazione è che Ronaldinho sia ormai vicino anche a quella famosa panchina del parco di cui parlava Gaia Piccardi, tant'è vero che è andato anche panchina vista mare. Prenditi le tue responsabilità. Ma sicuro, ma litigo con lor signori ormai da tempo su Ronaldinho. Tanto che è andato a panchina vista mare in Brasile. Cassano mi sembra invece ancora un giocatore vivo. L'anno scorso faceva la differenza prima, poi Del Neri l'ha panchinato e poi è tornato a fare la differenza. Però ho la sensazione sia un giocatore che ha bisogno di essere al centro della squadra, di essere comunque impiegato con grande continuità, di sentirsi importante, tutte queste belle cose che abbiamo detto molte volte. E non credo che sia questo il caso a Milan, perché infatti come dire, è vero che da semovente, come era l'altro giorno a Cagliari, è riuscito a mettere il piede nel gol decisivo, nel gol partita. E questo depone a suo favore, perché se da fermo, sovrappeso di 3 kg, fermo da 74 giorni, non fai gol da 3 mesi, comunque il piedino lo metti, insomma, vuol dire che in fondo, un giocatore di calcio lo sei ancora. Poi sono d'accordo, cioè Cassano è più vivo e lotta di più insieme a noi di Ronaldinho. Ronaldinho ormai era in rottura prolungata da tempo e poi a volte si dimentica che il vero allenatore del Milan, quel signore che sta a Roma a Palazzo Chigi anziché sulla panchina del Milan, lo voleva, quindi per quanto Galliani fino al giorno prima di prenderlo avesse detto non ci interessa, non fa parte dei nostri piani, Cassano è arrivato, quindi giocherà quanto, come, e soprattutto come questo influirà sull'umore, sulle bizze e su certi isterismi di Cassano, sarà interessante vederlo, perché dove è arrivato Cassano ha sempre cominciato facendo l'agnellino. Sì, poi sarà anche interessante vederlo il giorno che la prima volta che le fa girare a Ibra. E vediamo cosa succede alla quarta panchina consecutiva, vediamo quando comincia a fare le pernacchie dietro le spalle di Allegri durante la lezione di tattica a Milanello, vediamo cosa succederà quando posteggerà la macchina in un posto che non è il suo, se sarà intelligente da non farlo, non succederà niente. Se farà il Cassano ne vedremo delle belle, anche perché Ibra ha pronto l'uppercut da far partire sul mento di Totò. Lo appende. Letteralmente. Ne sono certo. Giovanni Capuano, il nostro uomo del sabato. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Gioca Cassano domani? No. Se intendi dal primo minuto, no. Panchina. Gioca panchina. Tutto il pomeriggio parliamo di panchine. Sì, ma del resto oggi Allegri l'ha riempito di elogi, ha detto che è la persona che fa fare il salto di qualità, però poi ha ricordato anche che per lui è come essere andato in vacanza e aver ricominciato la preparazione il 15 di luglio. Ci servono, ha detto, 45 giorni per cominciare ad avere una condizione accettabile, e lui tutto questo lo sta facendo con dei compagni che vanno a 100 all'ora, ovvero la traduzione a 20 minuti nelle gambe, non di più, sperando che come a Cagliari servano per vincere la partita con un tocco quasi da fermo. Tanto torna Ibra, torna Nesta, e nell'Inter Nesta non torna, ed è la cattiva notizia del pomeriggio in casa Milan, nel senso che Allegri sapeva benissimo di dover affrontare l'ennesima emergenza a centrocampo, tant'è vero che ha fatto anche discorsi in prospettiva mercato. Domani di fatto ci sono solo Strasser, Seedorf e Gattuso, e giocheranno loro tre sulla linea di mediana. E poi al momento di pubblicare la lista dei convocati si è scoperto che manca anche Nesta, quindi evidentemente al Milan hanno preferito preservarlo per essere più tranquilli, visto che gennaio è un mese pieno di impegni anche per il Milan, quindi non ci sarà Nesta. La seconda Inter di Leonardo? La seconda Inter di Leonardo sarà praticamente identica alla prima, con la differenza, e non da poco, che rientra Eto'o. Dopo le tre giornate di squalifica gli fa posto Pandev, si gioca però ancora con il rombo. Oggi c'è stato un momento di apprensione per Kivu, che ha chiuso prima l'allenamento, ma Leonardo ha detto che era pura precauzione e domani giocherà. C'è ancora il ballottaggio Cordoba-Ranocchia, ma Leonardo ha fatto capire insomma che al momento continua a preferire Cordoba. E la Juventus con chi va a giocarsi tutto a Napoli? Guarda, la Juventus, le certezze sono che non c'è ancora posto per Buffon, quindi giocherà Storari, che davanti Toni partirà dal primo minuto con Del Piero, perché Del Neri ha detto che Toni è la persona giusta, e del resto l'avrebbero cercato anche a prescindere dall'infortunio di Quagliarella, quindi resteranno poi sul mercato per cercare un'altra punta che sostituisca Quagliarella. C'è un dubbio sul ruolo di laterale destro in difesa. Del Neri ha fatto i complimenti a Sorensen, ma l'impressione è che Grigera sia disponibile, quindi possa tornare a prendersi la maglia da titolare. Il Napoli, giusto che per completare l'informazione, invece Mazzarri è orientato a confermare l'11 di San Siro, anche per togliere dalla testa che la sconfitta contro l'Inter possa suonare come una bocciatura per una squadra che fin qui ha fatto benissimo. Certo, grazie Giovanni. Grazie a te. Alla prossima. Grazie a Giovanni Capuano. Io ringrazio anche Gaia Piccardi, perché dobbiamo purtroppo chiudere, se è andato avanti un'altra oretta a parlare anche con gli ascoltatori, che oggi ci hanno dato ampia soddisfazione, ma tanto torni, no? Quando vuoi, è stato un piacere. Fantastico. Un gran divertimento. Grazie Gaia Piccardi. Grazie a voi. Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauriciani in regia. Ci sentiamo domani, come al solito, riprendiamo anche la domenica, prima domenica del 2011, dalle 4:30 alle 7, per raccontarvi tutto sull'ultima giornata di andata di Serie A, e poi domani sera 8:30-9 per capire cosa farà Dan Peterson secondo a Cremona, quindi basket dalle 8:30 alle 9 come ogni domenica. Dunque, aggiorniamo la seduta, a domani.